Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Numbers growing in speed. I can't fight the future, can't fight what I see. 'Cause people that come together, yeah, people that fall apart. No one can stop us now. Scattato Ibrahimovic in area di rigore, Ibra, rete, un gol straordinario. Fabregas, rischioso il pallone, Iniesta dentro, Messi, il tocco di Messi, Leo Messi in Barcellona avanti. Rapidez entrenale, prova Sepino, Drogba! Sempre lui, sempre Drogba! Robben nella poggia, proprio lui, Robben alla fine! E la musica speciale è una serata speciale, la UEFA Champions è riconosciuto da tutti come il campionato forse più importante a livello di club, a livello mondiale, quindi è normale, è giusto che viene vissuto come una cosa speciale, come una serata diversa dagli altri, perché è così, perché guarda tutto il mondo, e i migliori giocatori sono in campo, i migliori club partecipano. Ma dai, tiriamoci sul morale. Oggi... Quanta qualità musicale, buongiorno a tutti. Come va? Qua oggi per festeggiare. Siamo venuti fatto... fin qua, siamo venuti fin qua per vedere, sentire Genta. Oh. Sì, dobbiamo. Sono, grazie, sono usciti i dati, grazie. Sono usciti i dati. Ascolto, ci odiate, almeno sembra. No, ci insultate, no, ma ci volete bene. Grazie, grazie di cuore perché sono veramente fantastici e quindi siamo felici. Poi abbiamo una puntata scoppiettante perché abbiamo un grande presidente che sta facendo benissimo, fra poco in arrivo, un ex pallone d'oro, poi e praticamente l'uomo che insomma forse rappresenta meglio la Champions League. Addirittura. Beh, insomma, è uno di quelli che... Io ci stiamo a fare, cioè... No, capito, poi ci sono i nostri ascoltatori, vogliamo ricordare il numero? 800240024, vabbè dai, è giusto festeggiare, no? Anche se non c'è Piantanida, c'è Giorgio De Luca, c'è Roberto Scaltritti in regia e soprattutto torna al calcio più bello che c'è, come dice Seedorf. Ecco, quello... oggi sono indeciso fra Sanre... Ma levati. Scusa Marta, Marta Cagnola che ci starà sentendo la Sanremo. Scusa, scusaci se non ascolteremo. Mandatemi Mughini, per favore. Serve Mughini. Dov'è Mughini? Dica. Il signor Mughini, ieri sera a Tikitaka, immagino. No, sentiamo. Quello dove dice Pierluigi ti licenzio. No, ma abbiamo un sacco di Mughini, però non sono in arrivo. Non sono in arrivo, va bene. Ti sei salvata che tanti stavo... argomenti, calcio in cui gli arbitri contano, sono un po' più lontani, contano più i gol delle chiacchiere, anche perché non c'è tanto tempo da perdere. Ma chi se la piglia sta Champions? Tu sai come la Champions è impronosticabile. Tu tifi Paris Saint Germain, sì, ovviamente. Per Ibrahimovic. Tifo Ibrahimovic e Ancelotti. Tifo due, sì, singoli, due. Sì, beh, sono un individualista. Sono abbastanza. Sarei felicissimo per Ancelotti, ovviamente. Ma c'è ancora una squadra italiana che magari non è favorita, però. Se non va fuori a sto giro, va fuori al prossimo. Beh, c'è ottimismo delle parole del collega Genta, il signor Genta. Intanto vediamo come va, perché un anno fa contro il Barcellona, che sicuramente sembrava insomma invalicabile come muro, almeno all'andata insomma le cose sono andate in un certo modo, e magari senza quel palo di Niang per una questione di centimetri, sì, le cose potevano anche girare, ma con i se e con i ma non si va fa la storia, le ruote eccetera. Va bene, sentiremo Inzaghi e Cairo e anche Luisito Suarez in quest'ora e 20, e poi avremo anche delle cose nel finale olimpico. Hai chiesto l'amicizia a proposito followers, come ah sì, dobbiamo fare l'appello per i followers, perché siamo quasi, poi te ne dico un'altra. Sì, siamo quasi a 10.000 followers per quanto riguarda che aspettano gli altri? Tutti convocati, ragazzi, sveglia. 800240024, soprattutto cos'è? Hashtag, si dice così, vero? Hashtag, sì. Hashtag tutti convocati. Ma vieni su Twitter, niente. Guarda che... Non ce la faccio. Ma è bellissimo, è oltre me. Sei della filosofia di Mughini, che siccome non pagano... bravo. Non c'è nulla da... Hai chiesto l'amicizia di Ibrahimovic? Ma non c'è l'amicizia su Twitter, vedi come sei antico. No, su Facebook. Facebook. Ma Facebook io non pratico molto. Non pratico. No. Cioè insomma, Facebook è per parlare degli amici e per dire, curiosità, sai, c'è un sulla sua pagina, sulla sua bacheca, ha scritto ma cazzo, non posso accettare 300 persone al giorno. Ma cazzo, un'auto conferma amicizia? No. C'ha ragione, ma lo capisco perfettamente. Grande Ibra. Senti, a proposito invece di followers, hai sentito di Giroud? No, non ho sentito di Giroud. Non hai sentito di no, Giroud? No, sono impreparato. Che ha fatto Giroud? Aspetta, adesso te la faccio leggere. Sentiamo. No, si è fatto quanti beccare. Fogli hai là davanti? Tanti, si è fatto beccare comunque, scritto, dai, con alla vigilia di... Vabbè. Non lo trovo più. Giorgio De Luca porta, l'ho perso. No, eccolo qua. Sì. Sesso e Twitter figuraccia. Giroud, le corna, poi le scuse. Guarda che bello. Ma sì, l'attaccante francese ha tradito la moglie con una modella che ha fatto pubblicare dal tabloid inglese alcune foto inequivocabili. Ci sono gli insulti dei tifosi, la richiesta di perdono a tutti via social network. Fra l'altro abbiamo qui delle immagini, insomma, della... Va bene, insomma, ma c'è di peggio, ci sono tragedie peggiori, anche se, insomma, le corna sono una brutta cosa. Io parteggio per i calciatori, non si può fare sta vita. Veramente non si può fare sta vita. Twitter, Facebook, uno come si distrae un attimo viene massacrato. Vabbè, comunque adesso sentiamo il traffico, poi parliamo con voi. 800240024, ovviamente approfittiamo della presenza fisica del signor Pardo. Un argomento che mi interessa molto è questo degli allenatori, lo scrivono tutti, sull'orlo, oltre l'orlo di una crisi di nervi. Tutti vogliono fare Mourinho, ma per fare Mourinho ci vuole la stoffa, lavoro usurante. Tutti convocati. Non mi sembra che ci sia grande gioco o siano Juventus memorabili che rimane. Mi ricordo la Juventus di Lippi, la Juventus di Trapattoni. La Juventus di Capello mi ricordo perché ha vinto e sono stati revocati 2 scudetti, ecco, per quello mi ricordo. Beh, insomma, è venuto fuori un gran bel polverone, no? su queste parole di Conte, che ieri era passato la mattina in società, e toni più ammorbiditi, scuse eccetera. Però sai, io ti dico, sto con Olivieri, che sì. Hai letto, no? Le dichiarazioni di Olivieri, ma finalmente qualcuno che parla senza la mano che davanti alla bocca, che dice le cose, in fondo sono dialoghi, dibattiti, sono cose di calcio. Ma assolutamente. Io da un lato mi dà fastidio chi pensa che ci sia sempre la stampa dietro queste cose. Non c'è la stampa, cioè Conte ha dimostrato l'altro giorno che Capello non gli è simpatico, non ci siano dubbi. Qual è il problema? E siccome sono due grandissimi allenatori di una grandissima squadra che ha 10, forse 12 milioni di tifosi in Italia, non so adesso le ultime stime, è chiaro che se ne parli, ma insomma, quindi non c'è niente di male, secondo me, nel parlarne. Ma poi anche per esempio anche a Luis Suarez c'è qualcuno che non starà simpatico, no? Che qual è il problema? Sì, Luis, buongiorno. Più difficile. Che passa? Otto! Hombre, allora. Hombre, che passa? Tutto bene? Nada, muy bien, todo bien. Bueno, y vamos hoy con el partidazo del Barcellona. ¿Qué fa el Barça stasera col City? Difficile, è una brutta gatta da pelare questo Manchester. Sì, eh? Perché il Barcellona è un po' ripreso, però qualche giorno dietro non era nelle migliori condizioni, per cui sarà molto molto dura, penso. Però il Barcellona non sbaglia queste partite. Hai sentito cosa ha detto Mourinho a proposito di quelli che la toccano piano sul Barcellona? Ha detto per la sua storia il Barça parte favorito, ma quest'anno sta mostrando di avere tanti problemi, anzi penso sia il peggior Barcellona degli ultimi anni. Lui spesso non indovina, per cui il Barcellona è una cosa buona. Lui pensa di sapere tutto, di aggiustare tutto sempre nelle casse degli altri, ma non sì. Barcellona ha passato un momento delicato perché parecchi giocatori non erano in forma e poi ha avuto i due principali giocatori infortunati per un bel po', Per cui anche questo... Di questo non scappa nessuno, lì non ci sono allenatori che tengano. Sì, quando non dispone dei giocatori... più forte e dura. Sì, è dura, resta il fatto che è un Barcellona comunque diverso e che spesso però Luis Mourinho ci prende, o quantomeno se dice così secondo me è perché ha già scelto l'avversario più pericoloso, cioè il Barcellona, farà la corsa sul Barcellona. Sì, perché diciamo a lui gli fa comodo che il Barcellona sia fuori, perché se non lo incrocia sempre meglio, perché c'è grande rivalità per i suoi anni che ha fatto a Madrid, no? Sì. Devo dire però, che insomma queste partite sono partite molto molto impegnative per tutte e due le squadre, però penso che si vedrà una buona partita, perché anche il Manchester City è una squadra che pensa più a giocare che a distruggere. Poi penso che vedremo due bellissime partite. Partita fantastica. Oggi 47 anni di Roberto Baggio, gli facciamo gli auguri. Siamo fra palloni d'oro. Io vorrei chiedere al pallone d'oro Luisito Suarez se stai dalla parte di Conte o di Capello. Hai visto? L'ho presa alla larga, ma alla fine poi. Voglio dire, è un'ingerenza troppo forte quella di Capello, che ha cominciato, insomma, comunque a. Non sto della parte di nessuno dei due. No, perché hanno fatto una polemica inutile che non giova a nessuno, che non soluziona, e se fossero nessun problema, ripeto, non serve. Serve solo sì a riempire un po' di giornale, a che i tifosi discutano, litigano, eccetera, però è una. Comunque diciamo che può aver dato fastidio quello che ha detto Capello, però in definitiva è un'opinione, e l'opinione va rispettata, no? Certo, tutti diciamo delle cose. Anche Conte ha detto la sua. Ogni volta che una cosa, viene un altro a rispondere di malo modo, allora è dura. Senti, invece è meglio parlare, secondo me è meglio dirle le cose, al di là della convenienza che noi che facciamo questo mestiere possiamo avere, diplomazia. Senti, ma il Milan ce la fa? In che momento è l'Atletico? Ma ce la fa a far cosa? Lui ha fatto quelle due o tre partite un po' così così, adesso si è ripreso un po' l'altro giorno. Comunque è una buonissima squadra. Una squadra molto molto compatta, molto forte fisicamente, però che gioca anche bene, e c'è quel ragazzo lì in attacco che sta facendo delle cose fantastiche, e diciamo che molto molto dipende da lui, perché dopo tutto il lavoro che fanno gli altri, che è molto buono, sai, se dopo questo non gli fa il gol che gli sta facendo, dopo diventa più dura, no? Senti, c'è Franco che ti fa un grande saluto. Era bambino, teneva l'Inter, ricorda in mezzo, poi c'erano un sacco di messaggi, ma questo diciamo che era il più tenero e romantico. Una cosa finale: l'Inter che hai visto a Firenze è fuori dal tunnel? Cioè, Guarin sembra tornato parte del progetto. Hernanes, non ce n'è come farlo giocare, Guarin. Cioè, se sta in panchina, non combina niente. Sabato, diciamo che è la squadra che aveva iniziato all'inizio del campionato, quando ha fatto quelle serie di partite, di punti, ha ripreso su quella strada, si va avanti così, penso che siamo a posto. E possiamo preparare con calma per l'anno 21 di fare una squadra più competitiva, più di alto livello, entrando anche nella copertina, questa Champions League. Grazie Luisito. Ciao. Un abbraccio, ciao, buon ciao, lavoro. Ciao, ciao. Abbraccio. Abbraccio, abbraccio. Abbraccio a Luisito Suarez. Marco da Fermo, abbraccio anche a lui. Poi quel messaggio. Sì, quale? Eccolo là. Scusa Marco, da Fermo. Stai fermo un attimo, Marco da Fermo. Allora, c'è un ascoltatore, un genio, che dice: nel fare i complimenti alla trasmissione colgo l'occasione per far notare come per Genta tradire la propria moglie rientri nella categoria delle distrazioni. Cioè, uno sta lì un attimo, dice: mi sono distratto. Che è successo? Si scherza, viva le mogli, la fedeltà, ci mancherebbe altro. Prego, non Marco. Non si può dire niente, non si può dire. Marco, per te tradire eventualmente, tu sei niente, fidanzato, sposato? Sì, no, sei sposato, e la moglie non, cioè, voglio dire. No, assolutamente, poi siamo per radio, no? Ah, sì, siamo per radio. Vabbè, quindi perché ci hai detto radio. Che ci stai dicendo reo confesso, va bene, mandiamo su le solite interpretazioni della stampa. Esatto, bravo Marco, anche le mie sono interpretazioni che Pardo dà, ma sono totalmente distorte, sono cose che io non ho mai detto. Assolutamente. Prego Marco, assolutamente la parola al signor Marco, al signor fedele. Grazie. Marco, sì, grazie. No, intanto vi facevo i complimenti per la trasmissione. E volevo ritornare sul discorso di Conte, perché un pochettino ascoltando quelle che sono le parole un po' per intero dell'intervento, non mi sembra che, come si è scritto oggi anche ieri, Conte abbia voluto un po' legittimare Calciopoli, ma diciamo ha voluto un po' delegittimare quello che è il lavoro di Capello alla Juve, e almeno questo è quello che un po' io ho interpretato del suo pensiero. Poi chiaramente quello è sotto gli occhi di tutti. Capello c'aveva una squadra dove 10-11esimi hanno giocato la finale del mondiale. Sì, sì, questo lo sappiamo, è cronaca. No, Marco, hai ragionissimo. Qui adesso c'è un messaggio di uno che ci scrive: uno di noi Conte, uno di noi ultra Inter. È chiaro che qualche Inter, ma insomma, ragazzi, è un gioco. Secondo me non ci sono dubbi. Conte è il più grande tifoso della Juve che esista. Credo, o comunque fra i più grandi. Non posso dirti, io lo capisco Conte, lo capisco, perché gli ha dato fastidio questa ingerenza non petita, non richiesta, non nemmeno necessaria di Capello, che dall'alto del soglio russo, lautamente pagato come nessuno, infila il naso di qua e di là. E poi c'è quel famoso episodio, ormai è stato svelato, nel 2004, sì, che comunque insomma, può sembrare sospetto, e quando Capello arriva alla Juve, Conte non smette e non va a fare parte dello staff tecnico. Insomma, diciamo che se si fossero amati e piaciuti a prima vista, magari lavoravano insieme, o magari no. Insomma, però, voglio dire, mi sembra una cosa molto più semplice di quello che è. Su una cosa sono certo, che Conte non voleva fare un assist agli interisti con quella frase, voleva semplicemente in preda alla rabbia del momento dare una interpretazione di quel tipo. Grazie a Marco, Remo, ti conosciamo, sappiamo della tua Remo da Piacenza. Tegerrimo. Remo, buongiorno. Remo, sei sposato? Remo? Remo? Si è spaventato e ha messo. Qual è il piatto di Piacenza? I pisare, com'è? Pisare e fasù. Pisare e fasù, che spieghiamo per chi è nato a Gaeta, invece. È una pasta fatta in casa, integrale, altissimo credo. Livello. Con sugo, fagioli, molto buono. Personalmente, no, l'ho mangiato anni fa. Ti porto se vuoi. L'ho mangiato anni fa. Remo, ci sei? No, si è spaventato, ma me li fai scappare tutti. Ah, forse è la battuta sulla moglie. No, ragazzi, allora adesso da adesso il momento moglie è sospeso. Rimane Marco da fermo il momento moglie è sospeso. Torniamo serenamente a parlare di calcio, di pallone, di Capello, di Giroud non si può più parlare. Allora argomento che non sentiamo non è consentito. Possiamo sentire Mughini su Conte Capello? Oppure sentiamo Mughini su Conte Capello. Fra poco Inzaghi e Cairo, vai. C'è anche Lorenzo in da questo Firenze. Caso però l'ha fatta fuori dal vaso perché Capello non è che metteva il becco, stava dicendo la sua, ciascuno di noi dice la sua, certo. Capello non aveva detto nulla di insultante, aveva detto che il campionato italiano non è dei più competitivi al mondo e quindi una squadra che eventualmente domina il campionato italiano poi in Europa incontra delle difficoltà. Ha detto che lui non dà i castighi, ma non è nulla di perentorio, eccetera. E la risposta di Conte era di un acidulo che non finiva mai. Ma non sono così d'accordo con Mughini, non sono d'accordo sul fatto che Capello non abbia detto poi niente di... Ha ficcato semplicemente il naso in casa di Conte, e Conte ha detto fatti tuoi. Lo sentiamo anche oggi, che torno a parlare su questo. Adesso cosa c'è? Lorenzo c'è. Lorenzo da Firenze. Buongiorno. Buonasera. No, niente, non avevo ancora sentito Mughini, però mi trovo perfettamente d'accordo. Io sono juventino, sono di Firenze, ma sono per la Juve. Com'è la vita dello juventino a Firenze? Descrivicela in poche parole. In campagna siamo tanti, io sono proprio di Firenze, non sono proprio di Firenze, sono di periferia, quindi siamo in tanti. Però insomma ci sono anche parecchi fiorentini. No, mi trovo perfettamente d'accordo con Mughini quando dice che Conte l'ha sparata troppo grossa, insomma, se no non si può proprio dire niente, insomma, quell'altro aveva semplicemente fatto un apprezzamento sul campionato italiano, sul valore delle punizioni, e lui non dà le punizioni, non mi sembra che abbia detto granché, ecco. Sì, ma al di là della storia sul campionato italiano, che comunque io trovo poco condivisibile, l'ho detto l'altro giorno a Pierluigi, tra l'altro, insomma, non mi pare che il campionato spagnolo sia più competitivo, eccetera. Ovviamente sì, quello inglese, ma è un volendo anche un altro gioco, un altro sport, un'altra mentalità, quello francese non parlerei, quello tedesco è pure molto fisico, è sui generis, però non mi sembra una motivazione così pregnante. Io credo che a Conte abbia dato fastidio più quell'altro discorso, sì, che fa questo di dare punizioni, io non l'ho mai fatto. Sì, anche perché in fondo il discorso sul campionato poco allenante può essere anche interpretato come un complimento alla Juve, sì, che è riuscita col suo dominio a renderlo di fatto un campionato, esatto, già scritto, anche se, attenzione, perché la Roma almeno tecnicamente è ancora nella condizione di provarci. La Juve è favorita, però insomma. Tutti convocati. Questo è la rabbia del soggetto di Conte, perché Conte è irascibile. Penso che, ecco, la società qui dovrebbe frapporsi e mettere in chiaro le cose e fermare queste diatribe. Credo che Conte dovrebbe avere magari un po' più di rispetto per la società e chiedere magari se si può o non si può fare una dichiarazione. Questa è roba tua, per Luigi Pardo. Sì, ieri sera Tiki Taka, esclusiva, insomma, Moggi ovviamente un personaggio divisivo, no? C'è, sì, chi lo ama. Mughini ha detto che per lui è un pensatore alla stregua di Platone, per altri evidentemente non lo è, anzi lo hanno in profonda antipatia, però su questo argomento diciamo si è schierato. Che maggioranza e minoranza sono leggermente squilibrate. Non lo so, io non sono Mannheimer e non lo so, quindi adesso questo tuo non lo so. No, comunque sai, lui ha sempre questo tono che non lo so. Ti dice, io penso che la società... Ma guarda, in pratica ti voglio dire, Getta, devi stare attento, comportati bene. Magari lo sentiamo un giorno di questi. Il signor Moggi, il fra signor poco Moggi. Inzaghi e Cairo, Inzaghi amico e Cairo. Di Cruciani, mi pare. Chi? Moggi, no? Se lo siano amici, guarda che. Non lo so. Prova a chiedere a Cruciani quando lo vedi. Mario da Roma, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, volevo portare un contributo alla vostra trasmissione dicendo che forse probabilmente Conte, prima di parlare e accusare Capello, dovrebbe eventualmente guardare un po' il passato, o forse addirittura, se lui, siccome che è giovane, forse probabilmente Elkan, il presidente o comunque eventualmente il cugino, chi sia, potrebbero eventualmente dire a Conte che la storia di Gianni Agnelli non è che è stata esule da quello che comunque Luciano Moggi è stato incolpato, perché quando Luciano Moggi era effettivamente dall'altra sponda, non è che la Juventus o comunque il presidente o chi per lui ha fatto qualcosa di diverso di quello che poi hanno accusato Luciano. Io ho avuto modo di conoscere Luciano, ho avuto modo di conoscere e collaborare con Italo Lodi a Coverciano, la diatriba con il ex e purtroppo morto mister Facchetti. Non ho capito, scusa. Facchetti, dice? Si riferisce a Facchetti? No, assolutamente, Facchetti non c'entra in nulla in questa storia. Non lo so, io stavo provando a seguire anche io, faccio un po' di fatica. Parliamo dell'82. Sì, sì. Quando ci fu la deriva tra Luciano Motescu, tra Italo Lodi e Berzot. Sì. Sì. Il caso che è famoso. Sì. Vabbè, ma andiamo avanti, certo. Sì. Allora, il discorso è questo. Io dico che Conte, forse probabilmente, essendo più giovane di Capello non ha fatto altro che comunque, secondo me, e per quello che io l'ho potuto conoscere tramite queste cose, non ha fatto altro che essere potrebbe essere un despota, potrebbe chiamarlo di fare, però è stato un manager. Sì, Conte sì. Non è un manager. Conte Conte era l'allenatore. Che... No, vabbè. Ma Conte, scusate, ragazzi, io Capello lo stimo alla follia e ho anche un bel rapporto personale, certo. Tra una persona molto stimolante, un grandissimo professionista, un grande lavoratore, un uomo che ama tante cose nella vita, non soltanto il calcio e la disciplina, ma anche l'arte, una persona piacevolissima fuori dal campo, a cena. Conte però sta facendo un grande lavoro, insomma, è un allenatore giovane, ha preso la Juve che veniva da 2 settimi posti, l'ha ricostruita, ha vinto 2 campionati, vediamo che succede con questo qui, ma ci sono ottime probabilità, insomma, poi, si cominciano a discutere Conte. L'unica cosa dove si può discutere è quest'anno in Europa ha fallito in Champions, nel girone, su questo senza mezzi termini, però mi sembra che il bilancio sia molto positivo. Ma nel contesto di questa diatriba non trovo niente di così eclatante, di così clamoroso. Semplicemente Capello ha messo il naso a casa di Conte, il quale non ha gradito, ha risposto come doveva rispondere. Ti ricordo anche quella storia di della, insomma, della dell'asciugacapelli di Mourinho, sì, nel spogliatoio di Bergamo, eccetera, quando disse ai giocatori: uno scudetto l'avete vinto, non c'era nessuno, un altro l'avete ritirato in segreteria. E insomma, non erano cose poi diverse, almeno percepite da parte dei tifosi interisti. Mourinho aveva detto queste cose. Andrea, provincia di Grosseto, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io volevo intervenire proprio sul discorso Conte-Capello. Ma io, da come l'ho interpretata, mi è sembrato che Capello abbia risposto a una domanda fatta da un giornalista e abbia risposto in modo educato e civile, da persona civile. Cosa che mi è sembrato, da parte mia, la risposta di Conte un attimino esagerata. Non so dire, bisogna considerare anche i diversi momenti in cui sono state fatte. E poi c'è anche da dire che questa è una carriera mica facile. C'è Trapattoni, ce l'abbiamo quel Trapattoni lì, lo risentiamo per alleggerire il clima. Beh, il Trapattoni storico, quello che ha fatto storia. Eccolo qua, Strunz, vai! Strunz! Strunz, ich zweier Rias, gespielt sein Spiel, ich immer verletzt. Was erlaube, Strunz! Strunz, Ivo Farletz, sta sempre male. E invece Malesani lo risentiamo, poi diamo il voto con le palette. Malesani, eh? Io sono là 24 ore al giorno, io. 24 ore al giorno sono là, io. Tutti i giorni, cazzo! Ecco, e anche persone, perché tu dici Trapattoni e Malesani sono due molto caldi, ma anche sì, un signore come il signor Ranieri, che è proprio uno tranquillo, no? Sereno, sì, anche lui ha il suo strunz nell'armadio, sentiamo. Io sono il capo, io sono il loro allenatore. Tutto quello che faccio, lo faccio per la Roma, a fin di bene per la Roma. Può venir bene, può venir male. Dopo è facile. Parlare dopo è facile. Vabbè, ma che problema c'è? Cioè, non ti ripeto, la penso come Olivieri. A me piacciono anche queste diatribe, no? Questi confronti verbali, anche un po' sopra le righe. Anche in Inghilterra ne hanno fatte un sacco, con la zuppa di piselli che vola, te ricordi tutte, anche tu, no, Pierluigi, Ferguson contro Wenger, e poi ora c'è Mourinho contro il mondo e contro l'ingegner Pellegrini. Ma non riesco a capire dove sia l'errore, cosa ci sia di male in tutto questo. No, ma è chiaramente un lavoro da privilegiati, non c'è discussione, sì, che prendono un sacco di soldi, che hanno un sacco di gloria, che fanno un lavoro bellissimo. Io darei un braccio per andare, no, per vivere le emozioni, no. Però è un lavoro oggettivamente molto molto stressante, anche perché la responsabilità dell'allenatore è infinitamente più grande della responsabilità del singolo giocatore. Ma sicuro. Devi pensare sempre alla visione complessiva. Che notizie abbiamo dietro il vetro? Siamo pronti? 5 minuti, allora che abbiamo? E scopriremo cosa succede. Antonio da Varese. Sì, ciao, volevo intervenire, complimenti per la trasmissione. Grazie. No, molto semplicemente, io sono molto contento di come ha espresso il suo pensiero Conte, perché finalmente qualcuno che ha il coraggio di parlare senza inconvenevoli, eccetera. Quindi l'onestà, la sincerità, la schiettezza a me piace molto in questo calcio un po' troppo battato ogni tanto. Quindi, al di là della polemica con Capello o meno, finalmente uno che dice le cose come sì, si vorrebbe dire, tutto qui. A me fa molto piacere questa sincerità. Sì, più o meno come dicevo prima, ma ripeto, non ci trovo niente di così scandaloso, perverso. D'altra parte Conte non è neanche il primo, quindi... Altri argomenti? Simone? Simone? Sì, pronto. Pronto? Eccoci qua. Simone da dove? Dalla provincia di Monza e Brianza? Sì, da Carate e Brianza. Carate, diciamo, spieghiamo dov'è Carate a uno che è nato, non so, a Campobasso. Dov'è Carate? Qual è il piatto di Carate? Carate e Brianza, vicino, non so, a Monza, ecco. Sì, il piatto, volendo fare una specie... esperimento, è Monza. La cassuela. Sì. E poi il sonò. E poi il sonò. Il sonò vuol dire, traduco, io che sono ormai lombardo, esatto. E poi non lo so, il sonò, ecco. Comunque volevo farvi i complimenti per la trasmissione, perché dopo il mitico, sì, Garantini, potete venire solo voi. Grazie. Dica. La trasmissione è fatta con ironia e Pardo, non con garbo ironia. Gruppo di cabarettisti, un po' ficarra e un po' pigone, sei tu, Simone. Ale. Vai. No, volevo dire a te, Pardo, che sei innamorato di Conte, no? No, io anche secondo me ha fatto un lavoro straordinario, questo è innegabile. però delle volte poi si mettono le etichette a tanti allenatori e bisogna guardare sempre il momento storico, secondo me, perché il primo anno di Conte, ad esempio, quando il Milan era la squadra favorita, era la squadra più forte, poi ci sono state, durante l'anno il Milan ha avuto un sacco di infortunati, la Champions League, e poi se andiamo a vedere la statistica, Conte ha fatto, mi sembra, 15 pareggi durante l'anno. Sì, sì, è vero, all'inizio soprattutto. Tre in meno di Mancini all'Inter nel suo primo anno. Sì. E Mancini fu etichettato come Mister X, la pareggite. Ah. Quindi, sì, Mancini in quell'anno lì aveva davanti il Milan di Ancelotti e la Juve di Capello. È vero, e fra l'altro me lo ricordo benissimo quell'anno, anche perché era due anni fa, insomma, ho ancora un filo di memoria. Devo dire che gli infortuni di quell'anno del Milan sono stati incredibili. Ci sono stati anche infortuni come quello di Gattuso, quello di Cassano, diciamo extra calcistici, no? Quindi c'è stata una serie di sfighe, diciamolo, al di là del gol di Montari, dell'episodio di Catania Milan. Questo è fuori discussione. Però io credo che, insomma, non lo so, io ho seguito quel ritiro a Bardonecchia inviato Mediaset, c'era un clima di proprio veramente da rinascita di una squadra che aveva fatto due settimi posti consecutivi, è arrivato sto signore e gli ha dato una... difficilmente contestabile, dai, è molto difficile, possiamo cercarla nei numeri, possiamo cercarla nei pareggi, possiamo cercarla dove vuoi, però è difficilmente contestabile. Dopo il traffico Urbano Cairo, cioè, ma subito... Sei innamorato di Conte, non lo sapevo. Ma no, non sono innamorato di Conte. Bravo ragazzi, bravo. Non me l'hai mai detto. Bravo, ma quei tre sono bravi, perché Garcia non è bravo, Benitez non è bravo, dai, su. Dopo il traffico, Cairo. Prima il traffico, non a Cairo, poi Urbano Cairo. Bruttissimo questo, traffico. Tutti convocati. Viva il Mourinho, viva i Conte, viva tutti gli allenatori che sbroccano, almeno ci si diverte, scrive un ascoltatore, caro Pardo. E Ventura invece, che allenatore è? Buongiorno, benvenuto a Urbano Cairo, buongiorno, presidente. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno Gianluigi. Come va? Bene, bene, tutto bene, direi che dopo ieri sera molto bene, però adesso dobbiamo come dire, ormai l'impresa di ieri sera è fatta, dobbiamo cercare di pensare ad altro, sì. Ma ho detto ieri sera che non penserò al derby fino a un minuto prima della partita. Allora, lei presidente adesso mi deve dare, io lo chiedo a tutti, adesso mi deve dare un titolo, vinciamo il derby e andiamo in Europa, me lo dica, per favore lo dica. No, questo mai, è il contrario di quello che penso. Io penso che oggi noi dobbiamo fare le prossime 14 partite giocandole tutte quante con lo spirito di ieri sera, che era lo spirito di chi voleva anche in qualche modo riscattare una brutta figura fatta domenica con il Bologna, e quindi partita giocata veramente nel modo migliore possibile. Dobbiamo fare le prossime 14 partite con lo stesso spirito e poi vediamo, poi alla fine del campionato tireremo le somme e vedremo quanti punti abbiamo, però il fatto di mettersi lì a pensare andiamo di qua, andiamo di là, sì, sprechiamo soltanto energie e non serve a niente. Ma... per il derby ho detto prima, non ci penso fino alle 18:29 di domenica prossima, per cui figuriamoci. Ma Immobile in Brasile, perché no? Oggi Immobile è il giocatore italiano che ha fatto più gol di tutti in campionato su azione, perché Tevez ha fatto gol su rigore oltre che su azione, dei 13 gol che hanno fatto entrambi, 13 gol, e Pepito Rossi aveva fatto credo 3-4 gol su rigore, per cui il goleador in assoluto più prolifico su azione è Immobile, per cui io penso che meriti, poi dopodiché non sta mai dirlo, e credo che abbiamo un commissario tecnico, Prandelli, che sicuramente sa capire se un giocatore gli può dare una mano o meno in Brasile, per cui lasciamo fare a Prandelli che è molto bravo. Non c'è più religione, Marco da Bologna scrive: sono juventino ma innamorato di Cairo e Ventura, li adoro, pensa a te. D'altra parte il Toro, cioè, scrivono così. Marco ha deciso che andrà a vedere Juve Torino nel settore Osmo. No, questo non credo. Ma è una rivincita anche personale? Cioè, insomma, sul Torino c'è sempre grande pressione. Perché chiaramente c'è una storia fantastica, una tifoseria molto appassionata, e insomma nel passato di soddisfazioni non ce ne sono state molte. Questa stagione per Cairo rappresenta veramente l'annata perfetta non la vivo così. Io diciamo che la vivo come un risultato positivo di quest'anno, che è diciamo il terzo anno di un piano di sviluppo che abbiamo cominciato 3 anni fa con Ventura e Petrachi, e che sta dando buoni frutti, prima con la promozione, poi con un discreto campionato lo scorso anno, e quest'anno certamente migliore, però direi che non la vivo come una rivincita. è nei fatti che uno che comincia a fare il presidente di squadra di calcio e a maggior ragione del Torino col blasone che ha e con la storia che ha può avere degli incidenti di percorso e può anche non fare tutto quanto perfetto, anche perché poi l'esperienza non c'era quando ho cominciato. Ho avuto la fortuna di vincere subito un campionato e di andare in Serie A nel primissimo anno della mia attività, però poi evidentemente devi anche mangiarne di michette per essere all'altezza di un mondo comunque molto difficile. Non dimentichiamo che tutti, tantissimi imprenditori bravissimi hanno fatto fatica nel calcio, per cui è un mondo difficile. Quindi non è una rivincita, è semplicemente la soddisfazione di fare una buona cosa, ma poi non dobbiamo neanche crogiolarci troppo, perché qui l'obiettivo non è tanto di fare bene quest'anno, che stiamo facendo bene, ma è cercare di proseguire nel cammino anche negli anni futuri, insomma. E per gli anni futuri, io gliel'ho detto già un'altra volta ci siamo parlati, Ventura mi sembra l'allenatore perfetto per il Torino. Ora non voglio parlare di Ferguson perché sono altre storie, altre vicende, però mi pare che ci sia grande feeling tra lei, l'allenatore, l'ambiente, eccetera. E oltre a Ventura, se non vuol dirmi che vincete il derby con la Juve, dato che non siete l'Inter, con la Juve gli affari li potete fare, c'è Immobile in ballo, no? Sì. Quindi? Sì. Ma diciamo che Ventura, intanto io credo che noi riusciremo a breve anche ad annunciare il fatto che rinnoveremo il contratto per qualche tempo, per cui non lo posso ancora dire, non lo posso ancora annunciare perché non è fatto, però certamente lo faremo a breve. Io penso che sia una cosa molto matura, perché credo che dopo 3 anni insieme la naturale prosecuzione sia quella di andare avanti insieme ancora, in quanto Ventura ha voglia. Stiamo facendo buone cose insieme, ci siamo capiti, c'è una buonissima sintonia anche con Petrachi, che lo conosce bene, e quindi l'obiettivo è quello. Non perdete Capello per il derby, per fare la sfida in panchina. Capello Conte, una battutaccia. Anche se Conte, devo dire, insomma, dal suo punto di vista, no, è uno che vuole vincere, quindi giustamente, avendo fatto quel pareggio, ha fatto bene a convocarli tutti, insomma non è una cosa così peregrina, no? Poi credo che tra i due non ci sia un grande feeling, per cui per quello che si sono criticati, che lo ha criticato Capello a Conte, ma non voglio entrare in cose juventine. No, quello che invece, parlando di Immobile, Immobile è metà nostra e metà della Juve, vediamo adesso. Io credo che la cosa migliore per Immobile sia quella oggi di rimanere al Torino e di consolidarsi, perché lui sta facendo un'annata bellissima al Toro, reduce da un'annata non buonissima alla Genoa, e quindi per lui è fondamentale, per diventare un giocatore di altissimo livello, consolidarsi il prossimo anno al Toro. Quindi credo che la cosa migliore sia quella che lo teniamo ancora anche il prossimo anno la Juve noi, e noi ci mettiamo del nostro cercando di coltivarlo al meglio, di allevarlo al meglio per farlo diventare un grande attaccante, quale già è, ma può diventare ancora di più. In coppia con Cerci, giusto? Come? In coppia con Cerci, ci mancherebbe. Cerci è tutto nostro. Cerci ho già dato, come si suol dire. Una cosa finale, d'accordo, non pensa al derby, ma c'è una faccia che fa particolarmente paura? Non so se Tevez, Llorente, Vidal, c'è uno che proprio... Ma non c'è neanche il derby. Non ci penso. Che c'è sulla 7 domenica giochiamo, alle 18:30. Domenica giochiamo con il Chievo. Sulla 7 che c'è domenica sulla 7 alle 18:30? Che torna di nuovo a Torino. Fa due domeniche a Torino di fila. No, dai, sto scherzando. Però insomma, io non ci penso perché veramente oggi quello che conta adesso è allenarsi bene questa settimana, prepararlo al meglio tatticamente, in tutti i modi, fisicamente, perché poi è fondamentale avere la gamba, come si suol dire, e poi domenica arrivare lì alle 18:30 e dare il 110%, non consumarsi prima pensando al derby. Oggi il derby non c'è, ci sarà domenica, e il momento è quello è il momento. D-Day sarà domenica, non prima non si pensa al derby. Grazie, prima pensiamo ad altro. Grazie, grazie. Ciao, grazie. Ciao, presto. Buona serata. Ma tu ci credi? Beh, secondo me è la mentalità giusta. No, è la mentalità giusta. Poi è chiaro che è un tentativo, no? Come fai a non pensare al derby? Tanto del Toro non lo vince, 19 anni. Un sacco di alessandrini che ci dicono... Che salutano il presidente, sì, dicono: viene con gli altri a vedere i grigi di Alessandria. Vabbè, insomma. Senti, ci fermiamo perché abbiamo il GR. Poi abbiamo ancora quelle altre cose, eh? Non è finita, non è finita. Pippo, ti stiamo aspettando, Pippo! Fra poco, fra poco. Tutti convocati. Here we go. 24-00-24. Facile. Immobile, reduce da un'annata non buona, a Genova dove ha sofferto un po', aveva da un lato voglia di dare delle risposte anche lui, dall'altro aveva bisogno di essere messo in condizioni forse di poter realizzarsi soprattutto in base alle proprie potenzialità. Tutti convocati. Tutti convocati sempre, ogni giorno fino alle 15.20. Oggi c'è anche Parlo qui con me, che bello. Con una certa felicità. 8-0-0-24. Ho visto delle curve, guarda, ho visto una curva che c'è presente. Che curva, se le chiudono tutte le curve, fa il bravo, dai. Ma no, senti, ma tu pensavi alle curve da calcio, ho visto delle curve fantastiche. Marzo. C'è Pippo aprile. Inzaghi, ciao Pippo. Ciao Pippo. Ciao, buongiorno. Come va? La Coppa alla fine l'avete recuperata? Perché possiamo raccontare quello che stava succedendo ieri notte? Ah, vabbè, ma è normale, dai. Vi stavate scordando la coppa al ristorante, o sbaglio? No, i giocatori, il mister no. Mister non, al mister non scappa niente. Senti, ho letto che insomma hai vissuto alla Inzaghi questa partita, hai vissuto alla Inzaghi questa avventura e guarda caso come torna l'Europa, torna a vincere anche Pippo Inzaghi, anche se in un altro campo, in un'altra veste. Sì, no, sono felice, ho solo poca voce. L'unica cosa che è differente da quando giocavo, però la vivo intensamente, però penso che il merito più grande vada ai miei ragazzi, cioè alla squadra, perché ha fatto veramente qualcosa di straordinario sotto il punto di vista della voglia, del non arrendersi mai, delle prestazioni. Penso che anche questo sia molto importante, la gente ci segue proprio perché questa squadra ha un'anima da Milan e questa è la cosa più bella, ecco. C'è stata grande voglia di capacità di soffrire, no? Anche con l'inferiorità numerica, grande motivazione al gruppo. Ma tecnicamente, che allenatore stai diventando? Che idea di calcio hai per il futuro? Un calcio offensivo, un calcio più di attesa e ripartenza? Qual è la tua filosofia? Ma guarda, io mi sono sempre piaciuti gli allenatori che non mettessero davanti il loro schema i giocatori. Io penso di essere quello, nel senso che io cerco di adattare i giocatori che ho allo schema dove cerco di farli rendere al meglio, nel senso non a me piace per esempio il 4-3-3, l'ho fatto in tante circostanze quest'anno, però al Viareggio sono arrivato senza ali con due giocatori che giocano sugli esterni infortunati e potevo continuare a giocare così, invece sono tornato a giocare con Rombo perché avevo giocatori con altre caratteristiche. Qui io penso di essere questo tipo di allenatore che cerca di adattare il proprio sistema di gioco ai giocatori che ha, ecco, per farli rendere al meglio. E poi avevate la maglia bianca, che sappiamo è la scaramanzia. La maglia bianca sta al Milan nelle finali di Coppa come la maglia gialla sta al Napoli ultimamente. Senti, che sensazioni hai sulla Champions? Perché insomma tu sei uno che questa Coppa la sentiva in positivo, ogni volta tirava fuori il meglio, è un dato oggettivo, no? Sì. Segnavi pure in campionato, però la Champions è un'adrenalina diversa, ce la farà il Milan? Ma sai, prima è sempre difficile. Io penso che San Siro, DNA del Milan, possa prevedere, anche se l'Atletico è un'ottima squadra. Insomma, io domani sarò lì con i miei ragazzi, mostreremo il nostro trofeo ai tifosi e penso già a quello che passerà nelle corde, nelle vene dei miei giocatori. E poi faremo un tifo sfrenato. Mi auguro che il Milan faccia una grande gara ai giocatori per poterlo fare. Speriamo di andare avanti. D'altra parte, Pippo, il fatto che siate state seguiti da tutta quella gente, dalla curva del Milan, è qualcosa di simbolico? È un messaggio forse al Milan intero? È un messaggio forse a te? Non lo so, a chi può essere indirizzato questo messaggio? Certamente è qualcosa di strano. Ma, io, come dicevo prima, io non ho bisogno di dimostrazioni d'affetto perché so quello che la gente pensa nei miei confronti tutti i giorni. Quando vado in giro e se ho smesso di giocare l'ho fatto per il Milan, perché so quello che mi dà questa gente, questa società. Per i miei ragazzi sono felice, i tifosi della curva sono stati fantastici a venire quel giorno nel derby e da quando sono venuti probabilmente hanno visto l'attaccamento, la voglia che ci mettono questi ragazzi e hanno pensato ieri di farci questa sorpresa. penso sia un bel gesto, un bel gesto. Come dicevo prima, probabilmente hanno visto che questi ragazzi, noi abbiamo tanta voglia e li ha conquistati, ed è bello, perché non capita spesso, ecco, quello è vero. Senti, Balotelli, ci credi? Insomma, io penso che con i mezzi fisici che ha, insomma, se prendesse un po' della, no, della costanza, della tigna di Pippo Inzaghi, la cura dei dettagli, beh, io posso dirlo, insomma, Inzaghi rappresenta nel calcio proprio la voglia di emergere, la cura del dettaglio, i particolari, tutto, no? Sì, però lasciamolo tranquillo, io penso che ogni giocatore debba essere se stesso, come se io volessi copiare altri allenatori, cioè ognuno è fatto alla propria maniera. Balotelli è un grande giocatore, è un giocatore che ci può far vincere queste partite, speriamo lo faccia, ecco. Sì, un'ultima cosa, Pippo, in questo, io e Pier abbiamo parlato tutto pomeriggio di questi confronti dialettici sempre più frequenti tra molti allenatori. Vabbè, il capostipite è Mourinho, però vedi come ci sia molta dialettica in questo momento da parte degli allenatori. È una cosa che ti piace o sei più per un profilo basso a Ancelotti? No, no, io sono per un profilo mio, nel senso che a me piace parlare poco, sì, e andare avanti per la mia strada, come ho sempre fatto, crescendo di volta in volta, la mia filosofia, il mio pensiero, non mi va di entrare in certe cose, perché sono, ognuno pensa e fa quello che meglio crede. Io penso che il lavoro, la costanza, la voglia, alla fine paghi, per cui io cerco di portare avanti questi miei principi, ecco. Pippo, ma tu i castighi li dai alla Cappello o no? Sto scherzando. Io penso che l'allenatore debba saper usare carota e bastone, nel senso che io ho dei momenti in cui sono molto duro, però sai, quei ragazzi probabilmente è diverso, io sono così, poi ogni tanto sono uno di loro, perché ieri sera nei festeggiamenti ero uno di loro, ero il primo a scherzare con loro, però ci sono poi momenti in cui non bisogna scherzare, bisogna comportarsi seriamente. Penso che un bravo allenatore è quello che sa usare queste due cose al meglio, ecco. Sì, poi ho letto l'intervista, se non vanno bene a scuola o se non si comportano bene tremano i muri, guarda che ho letto, sono attento. Ma io sullo studio ci tengo, perché è una cosa che mi hanno inculcato i miei genitori, li ringrazio ancora. Loro non mi facevano giocare a calcio ed erano felici, però se non studiavo si arrabbiavano, e penso che sia giusto, perché dopo purtroppo si diventa magari giocatore uno su quanti, e poi uno magari non ha neanche studiato, non ha educazione. Penso che sia molto importante andare bene a scuola, anche perché se uno va bene a scuola sta alle regole, poi è più facile che diventi, secondo me, un bravo giocatore. E poi c'è un resto di vita da vivere quando finisce la carriera. Io ti aspetto a Tiki-Taka, cambiato idea. Ho fatto anche l'intervista, dai, andiamo a vincere, andiamo a vincere. Senti, la ricetta di... che era Piserei e Fasè? Piserei e Fasè. Com'è la ricetta? Perché prima avevo un dubbio. No, io sono bravo sui tortelli, preferisco i tortelli. anche la bresaola. Era vera sta storia della bresaola, che eri fissato con la bresaola? No. Ah, me lo chiedo. Sì, no, ma la bresaola è un alimento che quando giocavo, anche adesso ogni tanto, però adesso insomma sono un po' più meno ligio. Adesso se magna, Pippo, finalmente. Finalmente. Ciao Pippo. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Complimenti ancora. Grazie, anch'io metto la bresaola se tu fai nel soffritto per fare, no? Sì. Oppure nella mantecatura della cacio e pepe, un filino di bresaola ci può stare. Ci guardano come disperati. Mi sono dimenticato di pranzare, ecco perché c'è questa argomento. Ecco perché c'è questa fisa. Cacio e pepe quando ma fai? Quando vuoi, veramente quando vuoi. Facciamo un viaggio romano, dai, andiamo a fare una settimana romana, 28 gradi. Viaggio premio. Andiamo a Sochi? Sì, andiamo in Russia intanto. Sochi? Maria Pia? Ragazzi, però se mi parlate di carbonara, matriciane, queste cose, cacio e pepe, cioè capite che mi deconcentro. Che si mangia lì? Che si mangia? Le medaglie? Allora, no, si mangia il bulsa, che è una loro zuppetta con pomodoro, carne e verdura, è molto buona, nel senso che è appena piccante, però è gradevole. E poi ho mangiato un po' di verdure, cose così, però ragazzi, via dall'Italia, sapete che il resto è noia. Che peccato non essere lì stasera a farci un bursa tutti insieme con le verdure, eh? Quanto mi dispiace, guarda, perché controllo se c'è un volo, andiamo a fare. No, invece le medaglie... Le medaglie è un'altra oggi, è sesta. Arianna Fontana non sa più dove metterle. Come Vladimir, venite qua un paio di giorni e fate arrestare, poi tornate indietro. Quale Vladimir? Vladimir? C'è Putin e c'è Luxuria. Vladimir Luxuria, non Putin. No, lui no, è già Putin. No, io non riesco. Com'è finita la storia lì? È stata rilasciata? Niente, lei è rilasciata, ragazzi, non è che non è stata nemmeno arrestata in realtà. No, la fermata. Prima volta è stata fermata e identificata, quindi l'hanno preso i documenti ed è finita lì. La seconda volta era, tra virgolette, osservata speciale, si è presentata nel Parco Olimpico, tra l'altro il CIO aveva stabilito un'area in cui si può manifestare liberamente, loro hanno deciso non di utilizzare quest'area ma di entrare proprio nel Parco Olimpico con la troupe delle Iene e quindi ha di nuovo sfilato appunto con il motto essere gay ok, tra l'altro fa un po' sorridere il fatto che dalla stampa internazionale la vicenda sia stata presentata anche un po' scherzosamente, perché dicevano che lei, insomma, prima di essere fermata ha dovuto camminare un po' per farsi notare, perché la gente la fermava, le facevano le foto. Sei piuttosto dura, Maria Pia, sei piuttosto polemica, la gente non capiva un pochino. Sì, ho capito, insomma, quindi un po' di esibizionismo ad esibirsi, anche se insomma i diritti sì, tra l'altro ieri sera con Moscardelli a Tikitaka c'è una bellissima iniziativa questa settimana contro l'omofobia, con dei lacci che vengono distribuiti e che i giocatori indosseranno, chi vorrà, in segno di solidarietà. Però sai, puoi andare lì e proprio attuare la tattica della provocazione, anche normalmente dicono no, aspetta un attimo, quindi questo lo trovo. Dighe, a Roma ti dicono dighe, dove va? Senti, ma parliamo di medaglie. Chiudere, beh, sì, abbiamo ancora 30 secondi per dire che la signora delle medaglie è la Fontana ancora. È la Fontana, tra l'altro è la prima nella storia che ha 3 medaglie olimpiche nella stessa Olimpiade e potrebbe andare per la 4 perché le manca ancora i 1000 metri, dove oggi si è qualificata prima della staffetta femminile, dove le ragazze hanno vinto il bronzo, per appunto i 1000 metri, per cui potrebbe andare a poker. Quindi tutte le speranze italiane sono riposte sul ghiaccio e sulle donne, visto che anche Carolina Corner scenderà in pista domani per cercare di andare a medaglia. Perfetto, ci vediamo stasera per quel Bursa, sì. Mi raccomando, fammelo bello piccantino, ragazzi, che a me il Bursa mi piace. Un po' di pecorino che non si sa mai. Così già restano in vegano, dai. Ok, ciao Maria Pia, grazie. Ciao. Se dobbiamo salutare? Ringraziamo. Ho visto delle curve, guarda. Grazie. Dopo fai vedere anche l'ho visto, intervista, una curva bella, ultimo, grazie agli ascoltatori. Ultimo che sono... appello su quelli per i followers, giusto, perché Twitter, ecco, dopo hashtag tutti convocati, insomma, se non siete 10.000, no, ma devi dirlo bene. Allora, il profilo Twitter di tutti i convocati, ovviamente chiocciola tutti i convocati, è a un passo dai 10.000. Siccome oggi è un giorno bellissimo, abbiamo visto delle curve fantastiche, siete tantissimi e vi ringraziamo. Se arriviamo a 10.000, che cosa si vince? Si vince un Bursa. Si vince il 10.000esimo vincerà il Bursa piccante col pecorino. Se non ci arriviamo, vi facciamo un mazzo così. A domani, hasta luego. Vamos ganando sempre. Forza Cristo, 2:06:29 nel secondo e medaglia d'argento. Ultime curve per Zöggler, ultime curve prima della leggenda, primo Zöggler, sicuramente medaglia, Armin Zöggler. Medaglia bianca nel tutto, giro. Con argento. Dai Arianna che l'argento si può fare. Arianna Fontana argento. 2:45:20, il tempo da battere di Villetta per passare al comando per Christoph Hinderhofer, che arriva. Abbiamo una medaglia di bronzo con Christoph Hinderhofer. Partite, la finale dei 1500 metri. Dai Arianna, devi sfruttare il tuo sprint. Giù, sci Arianna. Chiudi e lanciati. Giù, sci Arianna. È bronzo. C'è chi è caduta Arianna. Forza, sul ragazze. Cambio. La Corea ha allargato molto. Corea ha allargato molto. L'Italia è terza. Andiamo a bronzo anche in questa occasione. Yes!